want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di JJ Telesforo. Parliamo della nostra voce, parliamo di cantanti, parliamo oggi di una signora o signorina, non so come definirti, ma sto parlando di una mia amica, un'insegnante di canto che ormai da anni vive a Los Angeles, dove guida la sua accademia, un'accademia bellissima con la quale ho anche l'onore di collaborare molto spesso, la Venice Voice Academy di Los Angeles. Qui al Soundcheck di Radio 24 il piacere di ospitare Giovanna Gattuso. Benvenuta Giovanna. Grazie Gegè, ciao e benvenuti, grazie per l'ospitalità soprattutto. Grazie a te, grazie a te. Allora, sei tornata in Italia per trascorrere le feste, poi presto tornerai a Los Angeles e oggi vorrei qui al Soundcheck raccontare un po' quello che fai a Los Angeles come insegnante di canto. Ma perché ti sei trasferita a Los Angeles quando comunque qui in Italia abbiamo bisogno di insegnanti di musica bravi come te? Ma diciamo che comunque io non abbandono l'Italia perché lavoro spessissimo anche qua, per cui qua ci sono. Sono cresciuta forse come tanti con il sogno della California e quindi sono andata alla ricerca di quello che volevo. Ecco, molti americani che fanno musica, soprattutto in un periodo che andava fra gli anni 50 e gli anni 70, hanno trovato l'America in Europa. Invece molti italiani trovano l'America negli Stati Uniti, giustamente. Tu ti sei trasferita ormai da diversi anni a Los Angeles e hai messo su questa accademia di canto, Venice Voice Academy, dopo aver fatto un tirocinio con quello che è considerato ancora oggi, anche se ha superato i 70 anni, l'insegnante di canto di riferimento per la vocalità contemporanea, che è un signore che si chiama Seth Riggs. Raccontiamo chi è Seth Riggs e che cosa facevi con Seth Riggs a Los Angeles ormai anni fa. Sì, parliamo di un bel po' di anni fa, effettivamente, quando appunto lasciai l'Italia per andare a Los Angeles a perfezionarmi con lui. Sì, a Los Angeles ma anche a San Diego ho fatto degli studi di gospel alla UCSD e ho, a seguito, col finire del mio tirocinio, ho aperto questa che è appunto la Venice Voice Academy, che si trova a Venice Beach sulla spiaggia californiana dove appunto facciamo questi meravigliosi corsi sia annualmente ma con due appuntamenti poi specialissimi, uno in aprile per le feste di Pasqua e uno in estate dove tantissimi sono gli allievi che partono, allievi, cantanti, non sono solo allievi, sono anche insegnanti che arrivano dall'Italia per fare questa esperienza. Allora, parlavamo di Seth Riggs. Chi è Seth Riggs? Seth Riggs è l'insegnante delle star, perché effettivamente da lui sono passati un po' tutti, da Judy Garland, Barbara Streisand, a tutta la famiglia Jackson, Jennifer Lopez, Britney Spears, eccetera, eccetera, e anche Giovanna Gattuso. Anche Giovanna Gattuso. Ma perché gli americani vanno da Seth Riggs? Lo diremo fra pochissimo, perché vorrei subito omaggiarti con due voci bellissime, che sono quella di Louis Armstrong e la Fitzgerald, e ho scelto loro perché so che sono fra i tuoi cantanti preferiti, nel senso che la voce può essere bella, educata, pulita, però poi la cosa importante è emozionare, avere un timbro riconoscibile, e sicuramente questi due signori lo hanno insegnato a tutti da sempre. Eccoli qui in un super classico intitolato Cheek to Cheek, Louis Armstrong e Ella Fitzgerald al Soundcheck di Radio 24. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dance cheek to cheek. Eh sì, le voci immortali di Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, per rendere un omaggio alla nostra Giovanna Gattuso, cantante, insegnante di canto in quel di Los Angeles, esattamente a Venice Beach, dove c'è una delle spiagge più belle e più importanti del mondo, anche per gli appassionati di musica, perché negli anni, fine anni 60, anni 70, tutto il rock viveva a Venice Beach, e ne parleremo con Giovanna Gattuso qui al Soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Delle nostre band preferite, gli Earth, Wind and Fire in Shining Star, in una versione dal vivo qui al Soundcheck di Radio 24 con nostra ospite Giovanna Gattuso, direttamente da LA, Los Angeles, Venice Beach, per trascorrere le feste, ma presto tornerà a casa perché ha un sacco di impegni con la sua accademia di canto, la Venice Voice Academy, un nuovo disco in produzione, tutto quello che si fa nel vorticoso mondo dello show business americano. Parlavamo di Seth Riggs, che è l'insegnante di canto delle star negli Stati Uniti, adesso non è più giovanissimo, ma continua a proporre il suo metodo. Qual è il metodo di Seth Riggs e perché è diventato così importante nel mondo come vocal trainer? È diventato importante perché è riuscito, insomma, a creare questo filone che abbandonava in un certo senso quello che era l'insegnamento classico della tecnica vocale, chiaramente facendone un uso per quella che è la storia, la tecnica e lo studio comunque della tecnica vocale, ma applicandolo a canti moderni tra virgolette, quindi gospel, rock, R&B, eccetera eccetera. E da lui, appunto, come dicevo prima, sono passati un po' tutti. Io quando studiavo con lui e quando lui molto cortesemente mi faceva assistere anche alle sue lezioni, perché mi chiese di diventare un insegnante del suo metodo, ho avuto il piacere di assistere a lezioni di personaggi come Ray Charles, che nonostante l'età e la fama comunque con tanta umiltà e tanta grandiosità andavano da Seth Riggs a fare la lezione di tecnica vocale. Ah, scusami, ma sono curiosissimo, che cosa poteva insegnare Seth Riggs a The Genius Ray Charles? Che cosa gli faceva fare? Esercizi per rimettere a posto le corde vocali? Cosa? Faceva fare esercizi molto semplici, base di mantenimento, che sono quelli che dovremmo fare tutti noi cantanti quotidianamente, così come dico sempre, un ballerino fa la sbarra, quindi i semplici esercizi che fai nel quotidiano da quando hai 3 anni a quando finisci la carriera. Lui faceva proprio questi esercizi molto semplici di mantenimento per la sua voce e faceva molto bene. Come si trova una bella ragazza italiana a Los Angeles? Come vive? Come stai lì? Grazie per la bella ragazza. Io mi trovo molto bene, devo dire che appunto, a parte insomma la scuola, che sicuramente mi dà grandi soddisfazioni perché lavoro con grandissimi cantanti, lavoro spessissimo in studio, faccio delle consulenze durante registrazioni appunto molto interessanti, molto importanti, e per il resto comunque ci si trova benissimo perché l'ambiente musicale dello show business è veramente molto molto stimolante, molto interessante. Poi, essendoci il cinema a Los Angeles, incontri veramente di tutto e di più, sia a livello musicale, personale, e quindi insomma a tutto tondo, è bello a tutto tondo. Che poi la scuola classica dello show business americano mette insieme un po' tutti i repertori, e la scuola è quella del musical: devi essere un bravo attore, devi saper recitare, devi saper parlare, devi saper esporre i pensieri e devi saper cantare e ballare. Questa è una scuola che noi in Italia non abbiamo. No, magari sicuramente puoi approfondire magari queste discipline singolarmente, e abbiamo sicuramente grandi artisti, come sappiamo benissimo, in Italia. La mia idea del fare un'accademia di questo tipo era proprio un po' quella di realizzare il mio sogno, quello che avrei voluto avere io quando studiavo. Sono riuscita a metterlo insieme per dare comunque agli italiani l'opportunità di venire a contatto con quello che è appunto lo show business californiano. Qual è uno dei tuoi cantanti preferiti? Jamiroquai. E allora facciamo scopo e ascoltiamo Jamiroquai proprio in Space Cowboy, che è il brano d'annata dei primi anni 90 che lanciò il talento, l'arte e la follia di questo strepitoso artista. Everything is good. Set hand in all my inner imagination. Soundcheck, il suono della musica. Giovanna Gattuso da Los Angeles con furore è tornata in patria per le feste, tornerà a Venice Beach per la sua accademia e anche per seguire le lezioni con il suo metodo, perché dopo aver fatto lirica per tanti anni, aver studiato con Seth Riggs, ha messo insieme un po' i vari concept per creare un suo metodo personale che si chiama Crossover, che è l'unico metodo realizzato da una cantante italiana certificato negli Stati Uniti. Quanto è stato difficile, che cosa significa? Devo dire che non è stato difficile, nel senso che è un po' il sunto di quelli che sono i miei trascorsi sia da studentessa che poi da l'esperienza da palco vera e propria, e quindi appunto avendo studiato lirica, avendo studiato con insegnanti di lirica, di gospel e poi di musica moderna, ho messo insieme questo che è appunto il metodo di canto crossover, che tra l'altro mi ha dato grandi soddisfazioni, è diventato un libro con CD, è stato pubblicato nel 2005 ed è diventato tra i primi 5 metodi più utilizzati in Italia, molto utilizzato anche negli Stati Uniti e, come dicevi tu, certificato, perché a seguito insomma anche delle richieste che abbiamo avuto negli anni è diventato proprio un metodo che può venire applicato anche dagli insegnanti, quindi con una certificazione vera e propria data agli insegnanti che seguono questo metodo di insegnamento. Chi può partecipare ai corsi della Venice Voice Academy a Los Angeles? Si può arrivare tranquillamente dall'Italia e iscriversi? Come funziona? Tutto attraverso internet? Tutto attraverso internet, può iscriversi chiunque, potete andare a vedere sul sito www.venicevoiceacademy.com o anche metododicantocrossover.com. È molto semplice vedere, ci sono piccole clip realizzate negli anni su quelli che sono gli eventi trascorsi. In una sessione fantastica c'è stato anche un insegnante meraviglioso, un tale Gegé Telesforo. Ma guarda, io sono sempre imbarazzato perché parlare di noi poi sulla radio no, mette in imbarazzo, però sì, tornerò e ti farò compagnia anche nella prossima sessione ad aprile, tra l'altro con un altro strepitoso insegnante di canto che arriva dalla Berklee School of Music di Boston, che è il mio collega Joy Blake. Esatto, sarà una vera e propria edizione speciale questa di aprile, che coincide con le feste pasquali, proprio per agevolare gli italiani che vogliono venire a trascorrere questa sessione intensiva di musica appunto con me, Gegé Telesforo, Joy Blake, una 5 giorni veramente, una full immersion di musica dove succederà di tutto e di più, molta improvvisazione, molta tecnica, molta musica. E il corso, la cosa bella di questo corso è che è veramente aperto a chiunque voglia partecipare. E poi è bello vivere proprio sulla spiaggia di Venice Beach, dove si fanno incontri favolosi, e spero nella prossima edizione di incontrare una delle tue cantanti preferite, e ci spiegherai anche perché se avremo il tempo, che è Erykah Badu. Allora, Erykah Badu al soundcheck torna con Back in the Day. Sound di Erykah Badu al soundcheck di Radio 24, siamo ai saluti, quindi Giovanna, io ti auguro veramente successi strepitosi anche per questa nuova produzione discografica che ti vede lì impegnata con uno dei più formidabili e impegnati producer discografici americani. Chi è questo signore? Si chiama Ted Perlman, e hai ragione a dire che è un grande, perché fu il primo produttore di Whitney Houston ed è veramente un'esperienza incredibile poter lavorare con lui. sì, insomma, spero di rivederti prima della sessione estiva a Los Angeles, che ripeto si terrà dal 16 al 20 di aprile a Venice Beach in California. Per chiunque volesse informazioni può visitare il sito venicevoiceacademy.com o scriverci a infocrocs@gmail.com. Grazie a Giovanna Gattuso, ricordando che abbiamo visto insieme un bellissimo concerto al Gibson Theater lì negli Universal Studios di Los Angeles con protagonista D'Angelo ma anche Mary J. Blige. Ci siamo divertiti un sacco, eravamo praticamente tre bianchi in mezzo a 5.000 brothers and sisters osannanti per la formidabile Mary J. Blige che chiude il soundcheck con About You. Grazie a tutti, buon pomeriggio, buona musica da Gigi Telesforo e Giovanna Gattuso. Grazie Giovanna. Grazie a te Gigi, a prestissimo. Mary J, well I am in the place with the love, love, love, love, love. Yeah. It feels good. Mary J, well I am. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Boy, you got me going crazy. I don't know what to say anymore. Soundcheck. Il suono della musica.